cerco il massimo della concentrazione. Poi l'allenatore mi dice le ultime cose, già le so, me le ha detto 100 volte, le ho pensate 1000. Poi c'è il rito, ogni squadra ha il suo, un urlo forte e siamo pronti. Adesso ci siamo, adesso andiamo fuori, adesso andiamo a vincere. Dallo stadio Niedersachsen di Hannover, Italia-Ghana, siamo pronti per la prima del mondiale, sono pronti gli 11 che entreranno in campo, è una delle formazioni più offensive che potesse scegliere, due punte davanti, Toni e Gilardino, un regista dietro le due punte, soprattutto un inventore dietro le due punte, Francesco Totti, un regista a centrocampo, Andrea Pirlo, e ai due fianchi due uomini capaci di fare inserimento, De Rossi da una parte, Perrotta dall'altra. È tutto pronto e batte il Ghana, sta per cominciare il nostro mondiale. I flash e si parte. Let's get ready to rock, let's get ready to go. Get set, get up, let's get it on with Radio Globo. Ci prova adesso Pirlo, vediamo se mira la porta. Il destro e gol! C'è De Piero che si accentra, scatta ancora Iaquinta. De Piero adesso va in posizione di centravanti. Grosso lo vede ma si ferma. Siamo però 3 contro 5. 3 contro 5. Puntari prova la percussione. È fermato da Pirlo. Va via Iaquinta. Cristo su Berardo. Ed è 2-0. Vincenzo Iaquinta. La palla al volo, come ti ha imparato tanto tempo. Allo stadio Niedersachsen di Hannover. Quando giocavi invece di andare a scuola, quanti sgridi ti prendevi da papà. Siamo presi per la prima del mondiale. Perché sognavi un giorno che avresti stato nell'Italia convocato. Adesso tutti sono con te, ma ci devi dimostrare che siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non potimo perdere, e fa pure merda, perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi, e se finiamo nel baratro la colpa è solo dell'arbitro. Sono pronti gli 11 che entreranno in campo, è una delle formazioni più offensive che potesse scegliere. Due punte davanti. Dico qualcosa. Cornuti, siamo vittime dell'arbitrarietà. Toni e Gilardino. A noi contraria, ecco che noi cerchiamo. Francesco Totti. Di difenderci da queste inequità. De Rossi da una parte, Perrotta dall'altra. Così palese, grande Luciano Morsi. Va via Iaquinta. Dacci tanti orologi agli arbitri internazionali. Disco, fino a un cazzo che vinciamo i mondiali. Siamo una squadra furbissimi. Va via Iaquinta. Fatta di gente drittissimi. Superando. E non vediamo perdo. E fa pure me. Perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi, e se qualcuno ci ostacola ce lo diciamo alla cupola. Ci prova adesso Pirlo, vediamo se mira la porta. Il destro è gol, va via Iaquinta. Cristo su Berardo ed è 2-0. Vincenzo Iaquinta. Abbiamo sofferto con loro e per loro. abbiamo cantato le loro canzoni, abbiamo visto e amato i loro film, abbiamo mangiato i loro panini, indossato i loro jeans, li abbiamo visti volare a canestro e raggiungere la luna. Ma il calcio è un'altra cosa, nel calcio vogliamo comandare noi. Dallo stadio Fritz Walter di Kaiserslautern, Italia-Stati Uniti, le due squadre arrivano al secondo appuntamento del mondiale con stati d'animo profondamente diversi. L'Italia è carica, sicura, compatta. Gli Stati Uniti si sono come svegliati da un sogno, quello di sentirsi forti come 4 anni fa, come quando arrivarono fino ai quarti. Per loro stasera è quasi già decisiva. Un unico singolo canto, una sola voce per l'inno degli azzurri. E si comincia, provano subito gli statunitensi ad aggredire la nostra difesa con un lancio lungo. Calcio di punizione, questa può essere una buona opportunità. Va Pirlo! Tagliata per Bocanegra che non arriva liscio, autogol di Zaccardo, incredibile pareggio degli Stati Uniti. Attenzione, rosso verde rossi, rosso verde rossi. Il gomito sarebbe stato punito, l'avevano detto, diventa durissimo adesso. Siamo in 10, 1-1, autogol di Zaccardo. In un minuto è cambiato tutto nel primo tempo, gol degli Stati Uniti e espulsione per l'Italia. Adesso espulsione per gli Stati Uniti e siamo con l'uomo in più. Fuori di niente. Abbiamo incontrato un avversario fiero, orgoglioso, che ha giocato una grande partita di cuore. E non c'è più tempo, l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Finisce 1-1 tra Italia e Stati Uniti. at the concert. Repubblica Ceca, Italia, quarto confronto tra le due nazionali, pronti a partire, via, via! Il primo lungo lancio da parte di Kovac, attenzione a Nedved, la palla sul sinistro, Buffon la riprende, la riprende! E ancora, bravissimo Cannavaro, stiamo soffrendo, Gigi Buffon! Un'ovazione per Francesco Totti dalle parti della bandierina del calcio d'angolo. Si fa vedere anche Fabio Cannavaro, abile nello stacco, c'è anche Materazzi, parte il traversone, stacca Materazzi ed è il gol, il primo gol di Marco Materazzi con la maglia della nazionale azzurra ed è il suo primo gol ad un campionato del mondo. Adesso 4 contro 1, Inzaghi da solo contro Cech, si guarda attorno, vediamo che fa, supera Cech, il 2-0 dell'Italia, il gol di Pippo Inzaghi, il primo gol ai mondiali di Pippo Inzaghi. Let's get ready to rock, let's get ready to go, get set, get up, let's get it on with Radio Global. Finisce qui. Italia batte Repubblica Ceca 2-0. Chissà quanti gliene ha presi Buffon a Trezeguet in allenamento. Lo conosci, lo conosci. Non è gol, non è gol, non è gol, non è gol, non è gol, non è gol, non è gol. Subito a gestire il pallone l'Australia con un lancio lungo, a cercare il colpo di testa di Viduca in verticale, il suggerimento per Del Piero che tocca il suo primo pallone da titolare nel mondiale, uno contro uno di Del Piero, subito attraversone verso il centro, secondo palo, c'è Toni sul fondo, prima palla gol per l'Italia, l'Italia, l'Italia. Pallone per Perrotta che ha tagliato bene al centro, Perrotta in profondità, buono il pallone per Gilardino, protegge palla Gilardino in area di rigore, prova a girarsi, Gilardino ancora lì, Gilardino l'ultimo dribbling, non riesce, Toni si arrabbia, forse voleva lo scarico, esce la difesa dell'Australia, non benissimo, c'è Perrotta in posizione regolare, la mette dentro, Toni, e ancora un'occasione, 34 minuti, bisogna metterla dentro, dentro, Materazzi, Zambrò, Zambrò, Zambrò. Quinta, arriva attraversone, Perrotta, poi Toni, sul fondo, per un per un soffio. Per il vento di Materazzi. Siamo in 10. Ultimo giro di orologio in corso. Siamo in 10. Ultimo giro di orologio in corso. Siamo in 10. Ultimo giro di orologio in corso. Siamo in 10. Ultimo giro di orologio in corso. Non c'è nessuno che si faccia vedere. Allora Totti con il sinistro, prova a lanciare, ben grosso, che riesce a far passare il pallone, c'è ancora spazio per un traversone, prova a prendere lo spazio, grosso, grosso in area di rigore, sempre grosso, ancora in area di rigore! Italia-Ucraina è il nostro quarto di finale, la strada che può aprirsi è quella della semifinale contro la Germania che è riuscita a vincere ai calci di rigore contro l'Argentina. Parte centralmente Camoranesi, un po' di spazio, lo prende tutto, ancora Camoranesi, grande azione, Camoranesi ancora sul destro, sul fondo, Mauro Camoranesi, prima occasione, 3:30. Zambrotta, si va a vedere Camoranesi in profondità, Totti 1-2 con Zambrotta, grande colpo di tacco, ancora Zambrotta, prova il sinistro, Gianluca Zambrotta, 5:26, 1-0, va a saltare Toni, arriva attraversone, c'è un contatto, Buffon, calcio d'angolo, miracolo di Buffon, abbiamo rischiato tantissimo sul colpo di testa di Kalinichenko, Buse a posizione regolare, Buffon! Ecco il pallone di ritorno, c'è tempo per il traversone, Cannavaro! Luca! Toni! 2-0! Zambrotta passa in mezzo, Zambrotta ancora dentro, Luca! Toni! 3-0! Cominciate a mettere i panni dentro le valigie! L'arbitro dice che basta così, manda tutti sotto la doccia, andiamo a Dortmund, siamo tra i primi quattro del mondo. Siamo fieri e orgogliosi di quello che stiamo facendo. C'è un'armonia, c'è una fiducia. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, che ha un grande obiettivo e vogliamo conquistarlo. Penso che sia l'anno giusto. Giusto. essere italiani. Conta di più. Dal Westfalen Stadion di Dortmund, Italia-Germania, l'appuntamento con la storia. Qui c'è il tifo più rumoroso, qui c'è il clima, è lo stadio più inglese. Qui giochiamo contro tutti, fuori casa. È tutto pronto per il calcio all'inizio di questa semifinale della Coppa del Mondo 2006, Germania-Italia. Camoranesi, 4 contro 4, possiamo andare con Camoranesi. Toni Totti! Partita intensa. Prova Girardino ad andare via, Girardino ancora, passa! Girardino è passato! Girardino in area di rigore, troppo laterale, Girardino! Palo! Palo! Palo! C'è Zambrotta, destro traversa, non è possibile! Prova a recuperare l'Italia, sono 6 contro 4, siamo in inferiorità numerica, c'è Kel prova a dare il pallone all'interno per Podolski in area di rigore, Buffon! Pirlo, la mette giù, c'è Totti che va dentro, messa fuori, c'è Pirlo! Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro, gol di grosso, manca un minuto, gol di grosso, incredibile, siamo sopra manca un minuto, arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, via il contropiede con Totti, dentro il pallone per Girardino lo può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Girardino, dentro Del Piero, Samba, Samba, Gianni. Ancora Pirlo, secondo palo. Pallone arriva! Secondo palo. Pallone arriva! Fatto andare Pirlo. Il secondo palo. Pallone arriva! Fatto andare Pirlo. Pallone arriva! Fatto andare Pirlo. Il secondo palo. Pallone arriva! Portieri completamente diversi, assolutamente, come caratteristiche, come stile, come fisico. La grande esperienza di Barthez, ma la grande esperienza di Buffon, la concentrazione di Gigi Buffon. Arriva Del Piero, Materazzi, Grosso, De Rossi. Del Piero credo che siano i nostri rigoristi con Pirlo. Vorrei chiedere anche conferma. Esatto, sono proprio loro che si stanno avvicinando al centro del campo. E va Barthez, incomincia a prendere posizione, arriva anche Buffon. Questo è l'epilogo della finale di Germania 2006. Sono arrivate Francia e Italia, sono arrivate da imbattute e hanno finito da imbattute il loro mondiale sul campo. L'Italia che ha preso meno gol, l'Italia 2 e loro 3. Esatto, con la concentrazione di maglie bianche e di maglie azzurre nel cerchio del centrocampo. Adesso l'abbraccio tra Gigi Buffon e Fabien Barthez. Tocca, credo, agli azzurri per primi. Pirlo contro Barthez. Buffon a Trezeguet in allenamento. cantare Buffon, facci cantare. Gol. Il destino dà a Fabio Grosso la più grande opportunità della sua vita calcistica. Grosso contro Barthez. Ci vuole calma, forza, determinazione. Seguiteci ancora un po' e poi uscite per strada e fate sentire a tutti cosa vuol dire vincere un mondiale in Italia e poi andatevi a prendere all'aeroporto e festeggiare con loro, perché se lo meritano davvero. A cambiare l'era.